Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. I capigruppo del Parlamento europeo danno l'incarico a Juncker oggi a Bruxelles, vertice dei capi di governo e di Stato. Si tratta sulla composizione della Commissione. In Francia Le Pen chiede che si sciolga il Parlamento e vuole un referendum per l'uscita dall'Unione. Si dimette il segretario dell'UMP. Partito Democratico a valanga anche nelle amministrative. Tra poco ospite il neo presidente del Piemonte Chiamparino, ma è ballottaggio in due storiche roccaforti, Modena e Livorno, dove non era mai successo. Dalla Siria torna il cooperante italiano Federico Motka, ma c'è ancora incertezza sulla sorte di Padre Dall'Oglio, dice il ministro Mogherini. Rapiti e poi rilasciati ispettori dell'OPAC, l'organizzazione per il controllo delle armi chimiche. In Ucraina massacro a Donetsk. Sarebbero tra i 30 e i 40 i separatisti uccisi negli scontri, mentre le forze di Kiev riconquistano l'aeroporto. La salma del reporter Andrea Rocchielli in viaggio verso la capitale. Per il Milan ci siamo quasi, forse in giornata sciolti i nodi economici. L'addio a Seedorf e l'approdo di Inzaghi alla guida della squadra. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che, se volete, come sempre le potete commentare al 349-238-6666 oppure da effettogiorno@radio24.it sulla nostra pagina Facebook, sul mio account Twitter, scrivendomi a Simone Spezia. Iniziamo da Bruxelles, dove questa sera c'è il vertice dei capi di Stato e di Governo. Si sono riuniti questa mattina i capigruppo del Parlamento europeo. Naturalmente si deve decidere sui nomi, chi andrà a comporre questa Commissione europea, a chi assegnare il mandato. Per ora il Parlamento europeo ha deciso. Sergio Nava, nostro inviato a Bruxelles, appunto, buongiorno. Buongiorno, allora proprio poco più di un'ora fa si è conclusa la riunione dei capigruppo dell'Europarlamento uscente, riunione flash, durata praticamente solo mezz'ora, molto meno del previsto, e l'indicazione votata a larga maggioranza è quella di indicare in Jean-Claude Juncker, candidato del centrodestra del PPE, il personaggio politico che dovrà cercare una maggioranza parlamentare per poi potersi definitivamente candidare ed essere designato alla presidenza della Commissione europea. Non è quindi una nomina diretta da parte del Parlamento europeo, un'indicazione diretta di Jean-Claude Juncker quale prossimo presidente della Commissione europea, ma un mandato, un po' come si fa nei governi nazionali, a trovare una maggioranza che poi lo supporti per diventare prossimo presidente della Commissione. Tra coloro che hanno dato la notizia all'uscita della riunione c'è stato il suo rivale, Martin Schulz, il socialista Martin Schulz. Sentiamo. I think the European Parliament will recommend or just decided with an overwhelming majority here in the group. Schulz che annuncia a Radio 24 che il capigruppo del Parlamento con una maggioranza schiacciante hanno indicato in Juncker il candidato appunto designato a trovare una maggioranza per presiedere poi la prossima Commissione europea. Tra coloro che hanno votato contro, oltre ai conservatori britannici, ci sono anche gli indipendentisti britannici di Nigel Farage, personaggio abbastanza colorito, e c'era anche lui, lo abbiamo sentito. Look, we've just had a quite dramatic European election with new skeptical parties, some new. Quello che dice Farage sostanzialmente a Radio 24 è: abbiamo appena avuto un'elezione europea drammatica che ha portato una forte onda euroscettica, di cui tra l'altro lui fa parte, e dice Farage l'impressione che non sia stato compreso e si continui con i soliti giochi di palazzo come business as usual, come se nulla fosse accaduto. Insomma, un tono abbastanza di disprezzo lo avete ascoltato di Nigel Farage. Dicevi Simone, stasera arriveranno i 28 leader europei, tra cui anche l'italiano Matteo Renzi, che arriverà alle 18, arriverà tra, diciamo, da vincitore, anche perché è uno dei pochi socialisti scampati alla debacle, e dovranno in qualche modo, la partita interessante sarà cercare di capire se i 28 leader europei daranno il loro avallo a Juncker come candidato designato alla presidenza della Commissione, oppure se inizierà un vero e proprio braccio di ferro col Parlamento europeo. Ci si attende anche risposte a questa ondata euroscettica. Questo sarà il secondo vero tema in agenda. Da Bruxelles è tutto. Grazie a Sergio Nava, più avanti ne parleremo con Sandro Gozzi, che è sottosegretario agli affari europei del nostro esecutivo. Si diceva, Matteo Renzi, uno dei pochi del gruppo dei socialisti europei che ha resistito alla debacle, di certo non ci è riuscito François Hollande. Ci spostiamo dunque in Francia da Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, ancora più battagliera oggi Marine Le Pen, mi pare. Beh sì, ha fatto una conferenza stampa poco fa nella sede del partito a Nanterre, nella prima cintura parigina, e ha ribadito le richieste già fatte domenica sera, lo scioglimento della Camera, le dimissioni del governo, le elezioni anticipate con un sistema proporzionale che possa consentire al Fronte Nazionale di avere una rappresentanza come dire, che rispecchi i risultati ottenuti nelle elezioni. Nel contempo ha chiesto una moratoria del processo di integrazione europea e di allargamento dell'Europa, uno stop immediato al negoziato di adesione della Turchia all'Unione Europea, la nazionalizzazione di Alstom, la società di energia e di trasporti che in questo momento è di grande attualità perché ci sono sul tappeto due offerte per acquisire le sue attività energetiche da parte degli americani di General Electric e dei tedeschi di Siemens, e uno stop, anche un congelamento del negoziato in corso tra Unione Europea tra Unione Europea e Stati Uniti sul trattato transatlantico. Va detto che la giornata in realtà è stata caratterizzata stamattina soprattutto dalle dimissioni del segretario del partito dell'ex presidente Sarkozy, diciamo del partito conservatore, l'UMP, a causa di uno scandalo che riguarda il finanziamento della campagna elettorale di Sarkozy nel 2012 ed è come dire, l'ennesima la ciliegina sulla torta per Marine Le Pen, che dopo essere diventata col Fronte Nazionale il primo partito francese con l'elezione di domenica, si ritrova adesso con una destra diciamo moderata allo sfascio e allo sbando. Una vera prateria a destra dunque per la Le Pen. Grazie a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, e veniamo alle cose nostre, all'Italia, iniziando da un punto politico generale e poi vi racconteremo qualche caso particolare che riguarda le amministrative. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, allora intanto forte del risultato delle europee, il Premier Matteo Renzi è salito questa mattina al Quirinale per parlare con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ieri, ricordiamo, il Premier ha ribadito che la legislatura andrà avanti fino alla scadenza naturale del 2018 e che non ci sono più alibi per non fare le riforme. Il PD, come abbiamo detto anche nei GR di questa mattina, sbanca le amministrative dopo le europee, il Piemonte e l'Abruzzo vanno al centro-sinistra, Sergio Chiampa Marino e Luciano D'Alfonso strappano le due regioni da Lega Nord e Forza Italia, 8 comuni poi sono confermati alla sinistra, tra cui Firenze, presa dal vice di Renzi, ricordiamo Nardella, Modena e Ferrari. La gente non vuole sfascia carrozze, Renzi lo ha capito, il sistema mediatico ha creato una sorta di Truman Show e c'era questa possibile idea del sorpasso, e queste sono le parole del neo governatore del Piemonte Sergio Chiamparino, appunto, che tra poco interverrà proprio qui ad effetto giorno. Invece interviene anche Massimo D'Alema e dice: non si arriva al 40% solo con i nuovi elettori, il PD tradizionale ha tenuto. Gianni Cuperlo della minoranza interna non ci sta poi alla banalizzazione del PD come una nuova DC, sono diversi il contesto storico e i soggetti. Per quanto invece riguarda il Movimento 5 Stelle, parla il sindaco di Parma Federico Pizzarotti: dobbiamo riconoscere la sconfitta e ripartire, e Casaleggio cambia strategia, dobbiamo sorridere di più, troppa aggressività provoca assuefazione. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, dunque qualche storia da queste amministrative. Due regioni e 8 comuni capoluogo al centro-sinistra. Il Partito Democratico sbanca anche alle amministrative, ma l'onda lunga di Renzi curiosamente non riesce ad arrivare ovunque. A Modena, ad esempio, per la prima volta in 70 anni, il centro-sinistra non elegge il sindaco al primo turno. Il candidato Giancarlo Muzzarelli, indebolito forse da primaria al veleno di una forte concorrenza a sinistra, non ce la fa per una manciata di voti e dovrà vedersela tra due settimane con il candidato del Movimento 5 Stelle, Marco Bortolotti. Tra le sorprese anche anche Livorno, Vecchia Roccaforte Rossa, destinata anch'essa al ballottaggio. Il candidato del centro-sinistra, Marco Ruggeri, non passa il primo turno e dovrà contendersi la poltrona con il grillino Filippo Nogarin, in uno scontro che potrebbe essere una riedizione di quello sempre tutto emiliano di Parma, dove a vincere alla fine fu Pizzarotti. Ballottaggio inedito anche a Padova, tra PD e Lega divisi da pochi punti, dopo 10 anni di governo ininterrotto della sinistra, e a Perugia, Terni e Pescara. E tra le sorprese di queste elezioni c'è quella di Maletto, sulle pendici dell'Etna, paese di 4.000 abitanti, in provincia di Catania, dove la Lega Nord risulta il partito più votato, mentre Annusco, in provincia di Avellino, spetta il record del sindaco più anziano. È Ciriaco De Mita, 86enne, eletto con l'80% dei voti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E alla politica torneremo più avanti, come vi abbiamo già annunciato, parleremo col neo presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Andiamo all'estero, invece, adesso in Ucraina. Le scene sono quelle già viste molte volte in teatri di guerra. Il cronista della BBC, un po' affannato, descrive gli elicotteri militari che volteggiano sull'aeroporto, l'antiaerea in azione, gli spari. Ma non è il Nord Africa e nemmeno l'Iraq. È Donetsk, Ucraina. L'offensiva contro i terroristi, come Kiev chiama i filorussi armati dell'Est, continua. Ieri il neoeletto presidente Poroshenko si è subito detto disposto al dialogo con Mosca, ma con i ribelli è deciso a usare il pugno di ferro. Nessun paese civile tratta con i terroristi, dice Poroshenko. Noi siamo un paese civile. Mosca per ora non intende sedersi al tavolo delle trattative con Kiev. È troppo presto, dice. Ma dal campo le notizie sono pessime. Una trentina le vittime solo negli scontri per l'aeroporto di Donetsk. Altri 4 o forse di più morti a Slavyansk in scontri a fuoco. E alle porte di quella città, in situazioni simili, sono stati uccisi il fotoreporter italiano Andrea Rocchelli e il suo interprete Andrei Mironov. Oggi i loro corpi sono stati trasferiti a Kharkiv. Da lì le salme prenderanno vie diverse, una verso la Russia, l'altra verso Kiev, dove già domenica sono arrivati i genitori del giovane ucciso. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora la Siria, dove questa mattina alcuni ispettori dell'OPAC in missione per indagare sulle accuse di recenti attacchi chimici con il cloro sono stati rapiti dai ribelli, secondo quello che ha riferito il governo siriano, e poi immediatamente rilasciati. Ma ci sono altre vicende che riguardano italiani, delle quali vi vogliamo parlare. Innanzitutto il ritorno di Federico Motka e poi le notizie su padre Paolo Dall'Oglio, che in realtà non ci sono. È rientrato in Italia stamattina con un volo atterrato all'aeroporto militare di Ciampino. Federico Motka, il giovane cooperante italo-svizzero, è stato liberato ieri non lontano dal confine turco dopo un anno di prigionia. Era stato rapito il 12 marzo del 2013 da un gruppo di uomini armati nei pressi del campo profughi di Atme, nel nord della Siria. Ad accoglierlo a Ciampino ha trovato il ministro degli esteri Mogherini. È molto provato ma sta bene, ha spiegato la titolare della Farnesina, che ha ringraziato tutti quelli che hanno lavorato alla soluzione della vicenda, soprattutto l'unità di crisi del suo ministero e i nostri servizi di sicurezza. Mogherini ha aggiunto che si sta lavorando con grande determinazione anche sul caso di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita italiano rapito nel luglio dello scorso anno, sempre nel nord della Siria, da un gruppo di miliziani caidisti. La titolare della Farnesina non ha confermato la notizia della sua morte, riferita ieri da alcuni testimoni. In questo momento non abbiamo elementi certi, ha spiegato Mogherini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per chiudere questa prima parte, poi più avanti torneremo all'estero, c'è la vicenda delle proteste in Brasile contro i lavori per i mondiali, e poi la vicenda invece dei bambini adottati in Congo che a quanto pare possono tornare. Chiudiamo questa parte però parlando di calcio e parlando di questo Milan che pare diretto più o meno a vele sgonfie, diciamo, verso la soluzione Inzaghi. Carlo Genta, a vele sgonfie non lo so, sborsando un po' di soldi per di alimenti per Seedorf, che ha 2 anni di contratto e chiama 10 milioni di euro. Questa è la questione da risolvere, però dopo il vertice notturno ad Arcore tra Berlusconi e Galliani, non ci sono più dubbi sul nome del nuovo allenatore del Milan. Si era detto dopo le europee Berlusconi deciderà, e dopo le europee Berlusconi ha deciso Pippo Inzaghi, quindi soluzione interna, quella preferita da Galliani in assoluto, che per il quale Inzaghi è un incontrastato idolo. E dunque il Milan va, scartate tutte le altre ipotesi, dalle più suggestive alle più fantasiose come poteva essere Ancelotti, ecco che arriva Pippo Inzaghi. Un po' invecchiato il cavaliere, nel senso, una roba di questo genere in altri tempi l'avrebbe fatta prima delle elezioni. Sì, esatto, avrebbe fatta prima delle elezioni, ovviamente avrebbe richiamato Ancelotti che sarebbe arrivato con l'elicottero, ma di questi tempi già il fatto che comunque il Milan sia costretto a pagare un altro allenatore, cioè Seedorf, che era stato voluto da Berlusconi, insomma, in questo momento per le casse del Milan è un notevole sborso, tanto che c'erano dei dubbi su questa soluzione, nonostante Seedorf fosse stato ampiamente esautorato dalla squadra e dallo stesso Galliani. Quindi adesso sarà interessante a divorzio firmato conoscere la sua versione dei fatti, cioè la versione dell'olandese, che di solito è uno che non le manda a dire. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è di pochi istanti fa l'aggiornamento della situazione in Ucraina, dove a quanto pare, però sono fonti dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, sono almeno 100 i morti e tra le vittime almeno la metà sono civili. In Europa i capigruppo del Parlamento hanno dato mandato a Juncker, una sorta di mandato esplorativo. Oggi a Bruxelles il vertice dei capi di governo, si tratta appunto sulla composizione della commissione che Juncker si candida a presiedere. In Francia Le Pen chiede che si sciolga il Parlamento e vuole un referendum per l'uscita dall'Unione. Si dimette intanto il segretario dell'UMP. Partito Democratico a valanga anche nelle amministrative, è ballottaggio in due storiche roccaforti, Modena e Livorno, dove non era mai successo. E ad Andrea da Bologna, che ci scrive via SMS che meritano un approfondimento queste due vicende, in parte l'abbiamo già fatto nel servizio, tenga presente che noi siamo sempre vincolatissimi dalla par condicio, oltre che da spazi piuttosto stretti. Saluto Sergio Chiamparino, neopresidente della Regione Piemonte. Buongiorno. Buongiorno. Allora, al di là del dato politico che più strettamente la riguarda, ossia una vittoria oggettivamente schiacciante, l'altro dato politico interessante, mi sembra, in parte lo commentavamo già ieri nella nostra trasmissione in effetto giorno, è che il Partito Democratico ha letteralmente sfondato al nord. Anche le percentuali in Lombardia e in Veneto sono notevoli. Questa è una questione che lei aveva sollevato spesso in passato, la difficoltà del suo partito a dialogare con un pezzo del paese. Sì, ma guardi, io stesso ho vinto in tutte le province del Piemonte, che notoriamente non sono tendenzialmente orientate a sinistra, almeno nella storia. Ma credo semplicemente che il Nord, in stragrande maggioranza, dica no agli opposti populismi, estremismi, qualunquismi, e voglia invece fiducia, voglia avere una speranza, e quindi ha investito su chi è in grado di rimboccarsi le maniche e lavorare per concretizzare questa speranza. Quanto ha contato l'uomo, intendo non lei nella fattispecie, ma Renzi? Secondo me moltissimo. Oggi sono le persone che danno credibilità ai partiti e non viceversa, come era un tempo, come era nel secolo scorso. Ha contato moltissimo Renzi. Adesso verrei all'inizio di questa sua nuova esperienza amministrativa dopo i molti anni da sindaco di Torino. Vorrei capire quali sono gli obiettivi principali a questo punto del suo mandato. Guardi, l'obiettivo principale è quello che io definisco scrivere il segno più a fianco della parola occupazione, cioè il lavoro, invertire la tendenza che purtroppo va avanti da troppo tempo di posti di lavoro che si distruggono e non si creano. Quindi per fare questo le leve sono tante. La prima, diciamo, più immediata è quella dei fondi europei, sono 3 miliardi di fondi strutturali che dobbiamo entro luglio mettere in portare a conquistare con un piano al governo che sia credibile e che non sia dispersivo. Poi c'è il progetto di garanzia giovani, che è finalmente un progetto di gestione moderna del mercato del lavoro. Bisogna investire molto sulla sburocratizzazione della pubblica amministrazione. Penso anche che si possa ragionare su un progetto che per alcuni anni azzeri l'IRAP per le imprese che si impegnano, che investono in Piemonte, per le nuove imprese che si costruiscono in Piemonte. Sento una cosa, questo è un elemento interessante, e le risorse contereste di ricavarle dagli stessi fondi europei, è possibile tecnicamente? Ma guardi, questo io lo sto verificando, così come sto verificando se dagli stessi fondi europei è possibile ricavare risorse che servano per costruire strumenti che facilitino l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Ripeto, sono cose che sto verificando. La rinuncia, a una maggiore entrata futura credo sia possibile a prescindere dai fondi europei. Bisogna capire se il quadro finanziario della regione lo permette, ma io credo che perlomeno in termini di segnali per alcune aree dove il problema è più critico lo si possa fare. Sento una cosa, vorrei capire quali sono i tempi dell'insediamento, perché lei ci ha appena detto che bisogna mettere giù un piano in tempi molto brevi per la spesa di questi 3 miliardi di fondi europei. Ora, se i tempi dell'insediamento si allungano, come altre volte è successo per quanto riguarda le regioni, sarà piuttosto complicato. Ma per quel che riguarda da me, io ovviamente sto già lavorando per far sì che il primo giorno utile noi si sia a posto. Il problema è, credo che la mia proclamazione non avvenga prima di prossima settimana, ma se avviene prima meglio, e i tempi della costituzione del Consiglio, anche questi non dipendono da me. Io il lavoro che sto cominciando a fare, a prescindere se sono già insediato o meno, è quello di perdere il meno tempo possibile per quel che dipenderà direttamente da me, quindi per capirci, formazione della squadra eccetera, non aspetto certo di essere insediato per avviare i necessari confronti con i partiti, con tutte le altre forze. L'ultima domanda che le voglio fare, non entro sulla squadra perché immagino non mi dirà niente, in questo momento è tutto in ragionamento e in formazione. Lei ha parlato della necessità di un dialogo con le altre regioni del nord, a partire da ovviamente la Lombardia, la vostra vicina la Lombardia, e poi immagino anche il Veneto, due regioni leghiste, pensa di poter... Ma guardi, dopo che avrò finito con lei cercherò il presidente Maroni, a me non piace i governatori, che mi ha contattato prima mentre era un'altra trasmissione, quindi perché abbiamo l'Expo e questo è un tema, altro tema prioritario e urgentissimo su cui costruire, soprattutto da parte nostra, dei progetti comuni. In parte ci sono già, però vanno confermati e probabilmente sviluppati. Con il Veneto e le altre regioni, io credo che l'idea della regione alpina per essere più forti in Europa e soprattutto su temi come la montagna, come l'agricoltura, come le infrastrutture, secondo me è un tema sul quale io investirei molto, non in nessuna ideologia della Padania o dell'Alpinia, ma progetti comuni da portare in Europa, questo sì. Grazie a Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, buona giornata. Buona giornata a lei, grazie. E noi adesso cambiamo decisamente argomento e veniamo al fatto che l'Italia si appresta a mettere la parola fine alla vicenda dei 31 bambini adottati nella Repubblica Democratica del Congo, bloccati a Kinshasa da novembre. La situazione appunto si è sbloccata e a breve i piccoli potranno ricongiungersi ai genitori adottivi. L'annuncio tra l'altro è arrivato dal Presidente del Consiglio Renzi ieri con un tweet. Uno di loro, uno di questi genitori, è Andrea Minocchi, che attende l'arrivo del piccolo François, 3 anni. L'intervista è di Valentina Furlanetti. Siamo stati avvisati ieri dalla CAI, dalla Commissione Adozioni Internazionali, che sembra che sia imminente il rilascio dei bambini. Adesso siamo in attesa di avere la conferma definitiva dell'arrivo dei bambini. Immagino che sia molto contento. Sì, dopo 7 mesi, puoi immaginare. Noi siamo, scendemmo a Kinshasa fine ottobre, quindi poi siamo rimasti lì fino a gennaio. Quando dovrebbero arrivare? Purtroppo non lo so. Siamo appunto in attesa, con il telefono sempre pronto, anche di notte acceso. E in questi mesi come vi siete tenuti in contatto? Abbiamo avuto dei contatti telefonici, soprattutto con Skype, a cadenza bisettimanale, storica. Sappiamo che loro stanno bene, abbiamo mai avuto apprensione per quello che è lo stato della salute, insomma, dei piccoli. Pensavamo che la matanza si risanasse prima, ma purtroppo così non è stato. Però, insomma, oramai, l'importante è il risultato, che effettivamente loro ritornino su. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sarebbero 100, secondo fonti, dei ribelli secessionisti, i morti a Donetsk in Ucraina. Tra questi metà sarebbero civili. I capigruppo del Parlamento europeo danno mandato esplorativo a Juncker oggi a Bruxelles, il vertice dei capi di governo, e si tratta sulla composizione della Commissione. In Francia Le Pen chiede che si sciolga il Parlamento e si dimette intanto il segretario dell'UMP. Partito Democratico a valanga anche nelle amministrative e ballottaggio in due storiche roccaforti, Modena e Livorno. Dalla Siria torna il cooperante italiano Federico Motka, ma c'è ancora incertezza sulla sorte di padre Dall'Oglio. La borsa. Borse in diretta. È una giornata solo parzialmente positiva, un più 0,08% sul FTSE MIB, un più 0,14% sul FTSE All Share in questo momento, più o meno sullo stesso livello anche le altre piazze finanziarie europee. Francoforte guadagna lo 0,36%, Parigi lo 0,01%, e per quanto riguarda Londra siamo a un mezzo punto percentuale di guadagno. Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. L'impressione è che dopo le reazioni al voto europeo di ieri ci sia un attimo di calma e di assestamento, per così dire. Assolutamente sì, comunque ricordiamo che Milano ieri aveva guadagnato il 3,6%, oggi è partita male, ma poi è arrivata anche a guadagnare mezzo punto. Francoforte aggiorna i massimi storici con il DAX, quindi anche questa è una performance comunque da segnalare. Poi c'è Londra, che ieri era chiusa e guadagna mezzo punto percentuale. Mediaset più 2,66%. Qui c'è un report positivo di Berenberg, insomma, che promuove il business del titolo, il momentum del titolo. Oggi diciamo che i driver, insomma, della borsa sono un po' i report degli analisti, l'opinione dei broker, e anche il caso di Banca Popolare di Milano, che guadagna il 2,4%. In questo caso c'è il buy, cioè un consiglio ad acquistare da parte di Société Générale. Ricordiamo che poi per quanto riguarda la banca di Piazzetta Meda c'è anche il tema dell'aumento di capitale da mezzo miliardo, che è stato chiuso venerdì con il tutto esaurito. E grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore e a Ceo Condina, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nel dicembre del 2013 il sistema del trasporto ferroviario di un pezzo del nord Italia e della Lombardia, quello di Trenord, andò in tilt con treni cancellati, corse dirottate e ritardi. Da oggi, con la pubblicazione di una sentenza della Corte d'Appello che a marzo l'ha autorizzata, scatta la raccolta di adesioni per una class action promossa da Altro Consumo. Anna Marino ha intervistato il presidente di Altro Consumo, Paolo Martinello. La class action di Altro Consumo contro Trenord parte fatti del dicembre 2012, quando un blackout del sistema informatico di Trenord causò una settimana, 10 giorni di praticamente di paralisi o quasi del servizio su con tutte le linee lombarde di Trenord, molti disagi ai pendolari, corse annullate, forti ritardi, treni sovraffollati, mancanza di informazioni, eccetera. Quindi quello è il fatto. La decisione di avviare questa class action è partita praticamente immediatamente dopo i fatti. Che cosa si può ottenere e soprattutto quanto pensate sia il danno? La domanda che abbiamo depositato in tribunale chiede che Trenord venga condannata a rimborsare l'equivalente di 4 mensilità di abbonamento, una a titolo di danno patrimoniale e 3 a titolo di danno non patrimoniale. parliamo sicuramente di alcuni milioni di euro. Ricordiamo che il risarcimento verrà concesso solo, riconosciuto solo ai pendolari che aderiranno formalmente alla class action. Chi può aderire a questa class action? Possono aderire a questa class action tutti coloro che erano abbonati Trenord, sia con abbonamenti settimanali che mensili che annuali, nel periodo dal 9 al 19 dicembre 2012. Saluto Sandro Gozi, sottosegretario agli affari europei. Buongiorno. Buongiorno a voi. La prima domanda che le voglio fare è molto semplicemente se Juncker ce la farà oppure no, o se, come si sta ipotizzando da qualche ora, alla fine i capi di governo possono trovare un accordo eventualmente su un altro nome che soddisfi un po' di più tutti. Ma guardi, io non credo che stasera verrà presa una decisione su un nome, che sia quello di Juncker o sia un altro nome. Io credo che stasera si ragionerà sui criteri, sui metodi, su come avviare un processo negoziale tra Consiglio europeo, capi di Stato e di governo e Parlamento europeo, che è la prima volta accade nella storia dell'Unione europea, perché ricordiamo che stiamo per la prima volta applicando il Trattato di Lisbona. E il Parlamento europeo fa la sua parte, Juncker, è evidente che a Juncker spetta la prima mossa ed è sulla base di un accordo che era intercorso tra i gruppi politici al Parlamento europeo, che si prende atto e si indica che Juncker è il candidato da cui il Parlamento europeo intende partire, visto che appunto il Trattato di Lisbona dice chiaramente che occorre tenere conto del risultato delle elezioni europee nel momento in cui i capi di Stato e di governo designano il Presidente della Commissione, e visto anche l'impegno politico che le varie forze e i vari partiti politici europei hanno profuso durante la campagna elettorale. Senta, ma che percentuale, adesso da un punto di vista puramente politico, che percentuale di possibilità gli dà alla Juncker? Non siamo al Totonomi e quindi eviterei assolutamente le percentuali. È chiaro che non essendo tra l'altro un vincitore netto, perché non avendo da solo una maggioranza assoluta del Parlamento europeo, è chiaro che bisogna lavorare attorno a lui e vedere quanto è ampio il consenso all'interno del Consiglio europeo e all'interno del Parlamento europeo. Per questo io credo, almeno poi i leader, quando sono attorno al tavolo, essendo loro appunto i leader, prenderanno loro le decisioni e magari vengo smentito, ma io credo che stasera si darà un mandato al Presidente del Consiglio europeo, a Van Rompuy, per appunto avviare proprio il negoziato alla luce di criteri tra i quali deve essere necessariamente il primo, quello indicato dai trattati, cioè il risultato delle elezioni europee. Certamente. E senta, a proposito proprio del risultato delle elezioni europee, è interessante il fatto che stasera chi ha una parola decisiva in tutta questa vicenda siano dei capi di Stato e di governo, tra i quali c'è gente alla quale le urne hanno fatto tutt'altro che bene. Penso a Cameron, per esempio, penso allo stesso Hollande, agli stessi francesi. Questo secondo lei può rappresentare un problema e un ulteriore rafforzamento del Parlamento europeo? Ma questo è un po' difficile da dire. Io credo che è evidente che il risultato elettorale in tanti paesi abbia indicato una forte volontà di cambiamento. Poi in alcuni hanno vinto forze che per cambiare vogliono uscire dall'Unione Europea, penso al caso del Regno Unito e al caso di Farage dell'UK Independent Party. In altri paesi, come nel nostro, ha vinto una forza politica, quella del... Tra l'altro le dico che oggi Le Pen ha detto che vuole il referendum per l'uscita dall'Unione Europea. Sì, appunto, sto dicendo che in alcuni casi hanno vinto forze che vogliono cambiare l'Unione Europea per uscire, in altri casi hanno vinto forze che vogliono cambiare l'Unione Europea per approfondire, per costruirla. Le prime sono le Marine Le Pen e i Farage, i secondi siamo noi del Partito Democratico. Quindi è evidente che tutto questo giocherà un ruolo. ma è anche evidente che il messaggio che è venuto ai cittadini è che vogliono avere un potere di influenza molto più forte rispetto alle scelte europee. Da questo punto di vista è chiaro che il risultato elettorale e anche le indicazioni del Parlamento europeo, a mio modo di vedere, dovrebbero essere prese in conto pienamente. Allora, seconda delegazione in assoluto nel Parlamento europeo dopo la CDU e prima delegazione del Partito Socialista Europeo. Riuscirà? Questo rende l'Italia, secondo lei, veramente determinante? Sì, rende l'Italia finalmente, ci rende nuovo l'Italia, cioè l'Italia attraverso questo risultato e attraverso il coraggio che il Presidente del Consiglio sta dimostrando torna al centro dei giochi, e il risultato elettorale è molto chiaro, tra le forze al governo chi vince veramente siamo noi, perché anche la CDU e CSU di Angela Merkel perdono voti rispetto all'ultima tornata elettorale. Questa è una forza enorme e anche una grandissima responsabilità che abbiamo e che dovremo far giocare innanzitutto per innovare le priorità politiche dell'Unione Europea, e noi è questo innanzitutto la cosa che chiediamo, cioè che l'Unione Europea e quindi nella nuova legislatura europea e quindi anche le personalità che occuperanno i vertici delle istituzioni europee devono impegnarsi sulle priorità che sono quelle che i cittadini si aspettano: la crescita, la lotta contro la disoccupazione, l'immigrazione e il tema dei diritti fondamentali, il Mediterraneo. Queste sono le priorità forti su cui l'Unione Europea deve concentrarsi e sulle quali noi vogliamo impegnare tutti coloro che aspirano a occupare i vertici delle istituzioni, a partire dal futuro Presidente della Commissione. Poi è anche chiaro che, essendo noi il primo gruppo, il primo partito nel gruppo dei socialisti e dei democratici, anche all'interno del Parlamento europeo, a partire dai vari incarichi che sono distribuiti in maniera proporzionale, è certo che vogliamo che il nostro peso venga riconosciuto. Sappiamo benissimo Pittella Presidente del Parlamento ci può stare, no? Ma guardi, certamente essendo noi la prima delegazione del secondo gruppo più importante al Parlamento europeo, dobbiamo certamente avere degli incarichi di rilievo. Poi vediamo chi farà cosa dove, ma è chiaro che la nostra presenza, il nostro risultato elettorale dovrà riflettersi negli nuovi incarichi istituzionali senza, al Parlamento. Senza far nomi, dunque, la presidenza del Parlamento si può reclamare, per così dire? Ma guardi, questo va inserito in un quadro molto più ampio, e essendo una decisione, questa che spetta alle dinamiche dei gruppi e delle delegazioni, le altre che spetta al Presidente del Consiglio, io non posso e non voglio dare indicazioni che appunto possono anticipare o essere addirittura fuorvianti. Si prendo atto che l'Italia, da quando il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto, cioè dal 79, non ha mai avuto il Presidente del Parlamento europeo. Che è già una mezza risposta. Grazie a Sandro Gozzi, sottosegretario agli affari europei, per essere stato con noi. Buona giornata. A voi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Come sempre a quest'ora è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, l'America sta ancora digerendo, devo dire, il risultato delle elezioni europee, e la politica estera domina in questi giorni, anche perché il presidente Barack Obama domani terrà un discorso proprio sulla politica estera, si sta preparando a un importante viaggio in Europa, sarà anche in Polonia e dunque dalla Polonia parlerà dell'Ucraina, dove si sono tenute elezioni ma la violenza continua. Obama poi andrà al G7 a Bruxelles e alle ricorrenze per il 70° anniversario dello sbarco in Normandia. Ecco, un altro elemento di politica estera per gli Stati Uniti riguarda la Nigeria. Michelle Obama si è impegnata in prima persona a fare il possibile per cercare di restituire la libertà alle 200 ragazzine che sono state rapite da Boko Haram. Gli Stati Uniti, Washington, il presidente Obama ha inviato 80 militari super preparati per cercare di aiutare i nigeriani in questa ricerca. E proprio di questo che voglio parlarvi oggi in una chiacchierata con una scrittrice americana che, pensate, ha anticipato con il suo libro proprio quello che sarebbe successo in Nigeria. America 24. Good morning, Susan. Good morning. So, Susan, well, first of all, how did you feel? Come ti sei sentita when you heard the news? I felt recognition, was not surprised. Ecco, Susan dice che per lei era come riconoscere qualche cosa che conosceva, non era sorpresa, perché sa che queste cose in Africa succedono molto più spesso di quanto pensiamo. E certo c'erano questi aspetti orribili, ma aspetti orribili che lei aveva conosciuto lungo un periodo di 7 anni in cui ha lavorato e preparato questo suo libro. Ecco, voglio chiedere però a Susan se non pensa che ci sia qualcosa di sospetto nel tempismo, cioè che il fatto di pensare quasi che questi ribelli abbiano visto questo libro, abbiano voluto, come dire, capitalizzare sul piano mediatico. I think that's unlikely, but I actually did hear this morning. Ecco, mi dice Susan che pensa che sia difficile, però proprio questa mattina è stata un evento al Council on Foreign Relations dove si parlava della dinamica dei fatti e dove facevano un parallelo molto stretto tra il modo di operare di Boko Haram e quello di Joseph Kony, le stesse tattiche, la stessa metodologia, e dunque è come dire, ha avuto una brutta, una sensazione strana, brutta, sgradevole, come se alcune delle informazioni che lei ha dato in questo suo libro in qualche modo potessero essere state prese anche da questi ribelli. Let's talk about your book, Susan. Ci puoi raccontare la tua storia? A boarding school in the north of Uganda run by Italian nuns is invaded in the middle of the night by these bandits who. Ecco, la storia è la storia di una scuola, di un convento, di suore nell'Uganda settentrionale, dove ci sono delle ragazze, ci sono 139 ragazze. Ecco, nella notte questi banditi arrivano, occupano il convento, rapiscono le ragazze, le portano via. C'è una suora italiana che si chiama Rachele Fassera, che tra l'altro Susan ha intervistato, ha visto questa suora segue i banditi e a un certo punto li raggiunge e sta con loro, riesce a convincerli a parlare, e uno di loro dice: benissimo, ci sono 139 ragazze, segna sulla sabbia i numeri, 109 te le puoi tenere, 30 ce le teniamo noi, scegli chi vuoi salvare. Ed è questo il primo esempio di crudeltà. Insomma, questa suora ovviamente alla fine deve scegliere 109 ragazze e lasciarne 30. So it's a game of cruelty. E ci sono altri personaggi, c'è una giornalista che poi appare, un gioco chiave nel libro, una giornalista americana che viene per investigare quello che sta capitando, e dunque chiedo, ma insomma fino a che punto si spinge questa crudeltà? E che ruolo ha questa giornalista che non appartiene a quel mondo? È come un ponte l'Occidente che cerca di capire, di scoprire. Well, Jane actually is responding on more of a personal level. Ecco, Jane dice, scopre delle cose che conosceva, che sapeva, come conosciamo e sappiamo tutti noi leggendo il giornale, ma essere sul posto, vedere le persone, sentire queste storie, insomma, io chiedevo se c'è una dinamica di incubi psicologici, fino a che punto questa violenza si spinge. Ecco, dice, sentire le storie ovviamente le porta su un territorio che uno non può immaginare soltanto leggendolo. C'è la storia, per esempio, a un certo punto, quando un soldato violenta una di queste ragazzine. C'è un'altra storia in cui dicono a una delle ragazzine di uccidere l'altra perché sennò morirà lei. Ecco, sono questi gli incubi psicologici. Ma chiediamo poi come finisce questa storia. For my heroine Esther, who's the Ugandan girl, she escapes eventually. Ecco, è Esther che è l'eroina poi del libro. A un certo punto riesce a scappare, ma scappa, non sa più chi è, perché nel frattempo ha ucciso, è stata violentata più volte, non ha più sentimenti, e dunque cerca di trovare un luogo, una posizione in cui si può rifugiare. Ed è ovvio che testimoniando orrori di questo genere, l'impulso è quello di dire: ma come se ne può uscire? Come può una persona che è passata attraverso questo diventare persona normale? C'è un obiettivo di disseminare questo rancore, questo odio, di modo che resti per le generazioni future, oppure essere il modello attraverso il quale si può uscire da questo pericolo? Peace is definitely possible to work toward. La pace è possibile, mi dice Susan, e per questi ragazzini, ragazzine che sono stati esposti a queste orrende esperienze, beh, c'è un lato eroico che consente di focalizzarsi sull'adattamento, sul cercare di recuperare quella parvenza di normalità, e molti alla fine ci riescono. Ecco, come possiamo trasporre questo che succede nel libro, cioè questa ricerca, questa rinascita, magari con una corazza diversa, verso la normalità per le ragazze che sono in Nigeria? From what I've heard about this group, they are very brutal. Non credo che i militanti di Boko Haram siano molto meglio di quelli dell'Uganda. Sono brutali, sono violenti, hanno attaccato una scuola, hanno ucciso 30 ragazzini e hanno detto a 30 ragazzine di andare a cercarsi degli altri mariti. Insomma, il pericolo è altissimo e dunque prima questa cosa si chiude, meglio è. Il fatto che ci sia l'attenzione del mondo che segue da vicino questa cosa, non so se aiuta o non aiuta, perché è chiaro che questi ribelli pensano di poter, come dire, ricattare le sensibilità di un'opinione pubblica che la pensa in modo molto diverso da loro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di questi rapimenti, di queste ragazze in Africa, quelli di Joseph Kony in Uganda e quello di Boko Haram in Nigeria. Ragazzine vengono strappate alla loro gioventù, costrette a subire terribili atrocità. A loro, a queste giovani donne, sperando che vengano liberate al più presto, voglio dedicare la canzone di oggi, Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. Ragazza, presto sarai una donna. Girl, you'll be a woman soon. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Grazie a Filippo Aureggi, Laura Faggin, tutta la redazione di Radio 24. Effetto Giorno torna domani alle 13, a tra poco con GR24.